allora, mezzogiorno meno un minuto, venerdì 11 di novembre 2012, sempre all'Ascolti Radio Onda Rossa, andiamo a cominciare questo ultimo approfondimento redazionale per oggi. Ancora una questione riguardante la Grecia, ma una zona insomma un po' particolare, forse periferica rispetto ai centri di cui ci occupiamo di solito. Stiamo parlando della Calcidica o Calchidiki, se dobbiamo utilizzare la giusta denominazione, una zona della Grecia dove sono presenti delle miniere altamente inquinanti e intorno alle quali c'è una forte mobilitazione popolare, come abbiamo avuto modo di raccontare già altre volte da questi microfoni. In studio c'è Antonella della redazione, che è la nostra ellenista di riferimento, anche perché è l'unica che sa il greco moderno, il greco antico qualcosa ce la caviamo per reminiscenze antiche, ma sul moderno poco o nulla. E poi c'è Iannis dalla Grecia, che è venuto proprio a raccontarci quello che sta accadendo, per cui direi insomma, intanto Antonella magari anticipa un po' la vicenda, così poi ne possiamo parlare in maniera più articolata. Sì, io ringrazio per la fiducia. Comunque, noi abbiamo parlato già a settembre con Iannis in una corrispondenza telefonica, raccontando un po' qual è l'origine un po' di queste lotte, e poi ci torneremo comunque nel corso di questo redazionale per fare un po' un quadro più completo della situazione che ha portato a questa grande mobilitazione popolare nella zona della Calcidica, che è una zona al nord-est della Grecia. E questa mobilitazione dura da diversi anni e si è anche particolarmente ingrandita e radicalizzata in questi ultimi tempi, perché ormai gli accordi per non solo l'estrazione dell'oro, ma soprattutto per il trattamento del minerale, sono cosa fatta con lo Stato greco da parte di questa società canadese che ormai ha la concessione per l'estrazione e la lavorazione. La lavorazione, dicevo, soprattutto perché è la lavorazione che produce delle sostanze altamente, fortemente inquinanti, dei materiali chimici che servono per separare l'oro dal minerale estratto, dal materiale estratto, e che poi vanno a precipitare ovviamente nelle falde acquifere con danni incalcolabili. È una zona soprattutto agricola, se non sbaglio, e molto bella, molto selvaggia, se possiamo usare un termine comprensibile, con delle grandi foreste, per non parlare ovviamente poi del mare. E recentemente c'è stata una manifestazione molto grande degli abitanti e delle abitanti della zona, una grande partecipazione di popolo che ricorda un po' quella che è la lotta contro l'alta velocità che si svolge da noi ormai da 20 anni in Val di Susa. Quindi io volevo partire intanto con raccontare un po' quello che è successo in questa manifestazione e quello che è stato anche soprattutto l'intervento brutale da parte delle forze di polizia, anche perché, come diceva Marco prima, sì, della Grecia noi ne parliamo, sui giornali qualcosa si trova in Italia, ma di questa lotta non si trova praticamente nulla, quindi ci sembrava importante raccontarla a chi ci ascolta. Dunque, come raccontare questa storia? Comunque, conseguenza di tutto quello che è successo dall'inizio di settembre, durante quella manifestazione, quello che si è visto, si era vista una svolta in qualche modo dal punto di vista repressivo, perché dopo la manifestazione del 9 di settembre, ovvero il giorno dopo la grandi manifestazioni di Salonicco contro durante l'apertura della fiera internazionale, il comportamento della polizia si è visto diversificato rispetto a quello che era accaduto comunque, a prescindere dalle tensioni che ci stavano fino a quel momento. Ci sono state delle varianti, no? in quanto era dal 77 che non entravano almeno a Megali Panagia in forze così imponenti le forze dell'ordine. Questo è un paese della zona direttamente coinvolto in questa storia, in quanto tra i paesi più vicini ai futuri scavi di questo grosso intervento, insomma, no? Durante la manifestazione, durante lo sciopero generale del 26 settembre, no, un tentativo degli abitanti là di organizzarsi, partecipare, mobilitarsi comunque, pensando più che altro a un'occupazione di strada, ha visto come reazione una massiccia mobilitazione delle forze dell'ordine, no? Cioè praticamente sia Megali Panagia che Irisos, l'altro paese, diciamo dei paesi più grossi coinvolti in questa faccenda contro l'apertura delle miniere, siamo stati circondati e per andare a partecipare alla manifestazione ci sono stati praticamente controlli, identificazioni di tutte le persone che partecipavano, eccetera. Successivamente, va bene, ci sono state diverse cose, no? Diverse cose che hanno mobilitato più gente. La cosa importante riguardo il 21 di ottobre è stata una mobilitazione nuova, no? E forse per questo in effetti ha avuto la risposta che ha avuto. Sono stati coinvolti anche altri paesi del nord-est, i paesi che stanno vicino al mare, Uranupoli, Nea Roda e l'isoletta Mulani, che erano praticamente baluardi del nostro sindaco, questi fino agli ultimi accadimenti là, insomma. Che l'opportunità si è data di coinvolgere più gente la presentazione da parte del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale del nuovo piano regolatore di Salonico, che coinvolge direttamente la nostra zona. E quindi lì si è vista una maggiore mobilitazione, la gente si è resa conto che tutto quello che ha, come dicevi prima, riguardo la propria situazione economica, in quanto una situazione articolata, ci si è cominciato a rendere conto che c'è qualcosa che non va veramente con la storia delle miniere, no? Quindi, che ne so, non so se vogliamo arrivare al 21. Sì, volevo parlare del 21 perché appunto è stata una repressione fortissima. Non che il 9 non ci sia stata, perché ci sono stati anche degli arresti, ci sono delle persone che sono sotto processo e mi risultano anche feriti in modo piuttosto grave. Un ragazzo in particolare. Sì, un ragazzo ha perso la milza dagli scontri del 9 di settembre. Quindi con uso anche di armi chimiche, il solito repertorio della polizia greca e non solo. Quindi il 21 però c'è stato un ulteriore salto di qualità da parte della polizia. Come appunto dicevano, io penso che questa storia del coinvolgimento di più gente, no? Una preoccupazione secondo me pure principale per quanto riguarda la gestione da parte del governo e delle forze dell'ordine di questa situazione. Quello che gli interessa e gli è interessato dal punto di vista della propaganda è stato sempre il non coinvolgimento degli altri abitanti di Chalkidiki, quelli per dire del sud, no? Che sono più luoghi più sviluppati dal punto di vista, diciamo, turistico, senza condividere, insomma, quel tipo di sviluppo, almeno per quanto ci riguarda come realtà locali del nord-est. Comunque sia, ci sono interessi diretti, insomma, anche loro, quindi questo coinvolgimento non ci deve essere. Una volta che questo è cominciato ad accadere, con il coinvolgimento appunto dei maggiori esponenti del turismo del nord-est di Calcidica, Uranupoli, Nea Roda ed Amuliani, penso che ci sia stato qualcosa come allarme per loro. La verità è che ci sono state delle mobilitazioni anche dal punto di vista delle organizzazioni di giornate di controinformazione riguardo il piano regolatore di Salonico e che significava alla fine, con la presenza del sindaco stesso, cosa che in sostanza ha reso chiara la situazione di com'è. Cioè il piano regolatore permette in maniera chiara a una ditta che investe, qualsiasi essa sia, senza nominarla, no? Se gli serve approccio al mare, se lo può ottenere attraverso una serie di espropri, insomma, obbligatori, in quanto tutto questo rientra in una logica di non si sa di sviluppo o di ripresa nazionale. E quindi ci stavano aspettando in forze. No, hanno permesso alla gente in qualche modo di comportarsi ingenuamente, farla credere ovvero che non succedeva niente. Quindi la gente ha camminato per tutta la strada, per 7 chilometri dall'ingresso della montagna fino alle parti dei cantieri, che purtroppo si vedeva che era una trappola, però la gente era, come dire, aveva visto quello che tramite i diversi video dopo la mobilitazione delle 50-55 donne che si erano fatte il giretto, insomma, per i cantieri, no? E la registrazione di quello che sta accadendo veramente sul montagna, era da aspettarsi che la gente voleva vedere il futuro mostro, no? In qualche modo. Io non so che tipo di curiosità era questa, se era il sentimento vero di autoconservazione in qualche modo, e la gente si è spinta in maniera spontanea in qualche modo verso i cantieri. Si è svolto un sit-in praticamente da parte delle donne, no? E in una maniera così straordinaria e da registrazione proprio, con la come sarebbe, insomma, con il partire di un sasso, due sassi o qualcosa del genere, è successo il panico totale, no? Cioè chimica dappertutto, sparavano per 5 minuti di continuo, no? Cioè si è creata una situazione di non si sa. E poi, insomma, tutto questo in un'area aperta. E quindi lì la gente, so che è scappata dentro i boschi, si sono sviluppati anche degli incendi che, anche qui in analogia alla lotta no TAV, sono stati accollati ai manifestanti, mentre invece sono stati sicuramente provocati quantomeno dai candelotti della polizia, se non appiccati volutamente. In quella parte del bosco si potrebbe dire che dai candelotti sarebbe relativamente difficile che si appiccasse il fuoco, no? Non è che non succede, però non è quello che è successo veramente in quella giornata. Poco prima che cominciasse veramente il panico, si era stato appiccato un fuoco con legna ammucchiata che non c'entrava con quella parte del bosco, cioè in mezzo praticamente alle querce, in mezzo alle querce, a piccare fuoco con rami di pino o di cose così. Tutta una cosa catastata che si vede pure su un video, fortunatamente almeno ci sono queste registrazioni. Perché è un giochetto questo, no? Siccome noi veniamo indicati come ecologisti, la parolaccia più grossa che puoi pronunciare in greco, no? Cioè chi è ecologista non vale proprio assolutamente nulla, insomma, no? E chi libera le vipere in giro, insomma, in qualche modo. E questo è un giochetto, no? Un giochetto di propaganda di quello che fanno. Ci sta pure un blog loro, insomma, che si lavora proprio su questa cosa. Un blog dell'azienda? È un blog proprio dell'azienda, no? Lo vogliamo ricordare come si chiama questa? Politis Aristoteli, cittadini del comune di Aristotele. E l'azienda, invece, la ditta, cioè la grossa multinazionale, non ditta canadese, si chiama l'Hellenic Gold. Hellenic Gold è il consorzio, diciamo, che opera in Grecia, non la ditta, è il Eldorado Gold Corporation canadese. Diventerà grossetta, insomma, come ditta ancora più grossa con le storie che c'è sia in Grecia, perché non è soltanto le miniere in calcitica, no? Che possono essere espanse, estese, insomma, di parecchio di quello che si dice come quantitativi di estrazione. Cioè, ci sono possibilità di gioco sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista, come sarebbe, anche di soldi caldi, insomma, no? di affari proprio, insomma, di economia reale, no? In quanto sono zone polimetalliche, quindi qualcosa ogni volta, insomma, possono tirar fuori anche come partite, no? Un anno di lavoro, che ne so, lavoriamo sullo zinco perché lo zinco ha di un prezzo buono sul mercato, quindi ne vale la pena quella. La cosa grave in questa situazione, no, è questo circuito, di questa articolazione di lavorazione di metalli che vogliono fare, no? Sia a partire dalla Grecia, no, con queste grosse, con tre grosse miniere, una in calcidica, più in calcidica, comunque questo complesso di calcidica, poi a Chilchis, altri due siti, insomma, grossi che ci stanno. Dov'è Chilchis? Chilchis sta ovest-nord-ovest di Salonico. Ah, quindi sempre, no, nel nord. Una distanza di 45 km, circa 60 km massimo, insomma, che ne so, dalle zone di estrazione. E poi la Tracia, no? Con altri siti, e poi ancora ci sta Drama, cioè in tutte le regioni della Grecia del Nord ci sono siti vari che possono interessare da questo punto di vista, no? In Chilchis il problema, quello che denunciano gli abitanti là, è il fatto della presenza, loro dicono, insomma, di quantitativi bassi, però anche di uranio, no? Però già il fatto di scavare, tirarlo fuori, eccetera, rende la situazione ancora più grave, no? Sì, poi l'uranio ha veramente delle conseguenze pesantissime sull'ambiente. L'estrazione dell'uranio è una delle più inquinanti che esista, insomma, questo ne abbiamo anche parlato per radio. Basta vedere quello che è successo in Niger, insomma, sono zone che sono assolutamente lunari, se vogliamo usare questo termine romantico. Tornando alla manifestazione, dopo queste violente cariche la gente è tornata indietro per questi 7 chilometri, fuggendo chi nel bosco, chi per strada, per tornare alle macchine. Qui è successo qualcos'altro? Qui è successo qualcos'altro, è vero, perché dalla mattina, no, questo, diciamo, che la trappola che si intravedeva in qualche modo, la gente, appunto, muovendosi, se si può dire pacificamente, ingenuamente, no, non si è resa conto bene del fatto che ci stavano forze dell'ordine pure sulla strada, che ci hanno permesso in qualche modo l'ingresso, anche se questo forse si può dire che non ci è stato permesso, ma si è creata la situazione in quanto siamo arrivati prima della manifestazione che accompagnavano loro dal paese vicino, favorevole questa volta all'apertura delle miniere, Paleochori, dove era stata indetta una contromanifestazione da parte dei cosiddetti sindacati dei minatori, cosiddetti perché sono padronali in maniera rigorosa e assoluta, ma anche dalle autorità locali, ovvero dalle politiche, no? dai diversi consiglieri comunali, non consiglieri, presidenti, data il nuovo sistema della gestione della provincia, dei comuni, no? Sì. Quindi ci sono stati questi, c'è stata questa chiamata, insomma, alla contro manifestazione che, diciamo, è stata forse la vera vittoria di quella giornata, no? Perché la gente, a prescindere dalla sconfitta, la vede come vittoria la giornata del 21, no? In quanto le perdite sono state relativamente poche, se si pensa alla situazione che hanno creato, che ci potevano essere veramente feriti gravi in quella situazione. Sparare all'altezza d'uomo in una mischia di gente che non vede, non respira, io non so a che cosa preannuncia, insomma, con questa situazione, come se stessero cercando qualcosa di grave, no? Questo, diciamo, pure il comportamento da parte della giustizia fino a questo punto, senza essere più di tanto severa, però stanno cercando di penalizzare questa situazione, si cerca il pretesto, insomma, per quali questa sono i reati fin qui che sono stati reati, tranne resistenza e partecipazione a corteo con intenzioni, non so, insomma, che potrebbero essere intenzioni di una composizione di quel tipo, no? È roba dall'epoca dei colonnelli, questa della partecipazione a corteo a fini di sovversione o storie del genere. Cioè, significa, come sarebbe, la penalizzazione collettiva, insomma, no? tu partecipi, altri fanno quello che possono, quello che gli passa per la testa, e sei responsabile pure tu, insomma. Sì, quello che succede da noi, insomma, quindi c'è una comune direttiva europea evidentemente rispetto a tutto quello che si muove in opposizione a tutto quello che loro fanno, e quindi hanno rincorso le persone. Hanno rincorso le persone e quando ci si è resi conto, prima di tutto, perché quando è cominciata la storia dentro è cominciata la storia anche all'ingresso della montagna. C'è stato il tentativo da parte della polizia di entrare e chiudere proprio tutto, chiudere la gente dentro, ovvero eseguire il maggior numero di arresti possibili, no? O comunque creare una situazione veramente di panico, perché chiudere 2000 persone dentro la montagna, no? Senza possibilità di, da tutte e due le parti, senza possibilità di uscita tranne che il bosco stesso, significava che un numero grosso di persone perse per la montagna per giorni. Senti, e poi sono arrivati anche dove erano state lasciate le macchine, chi era riuscito a raggiungere le macchine, insomma, è stato fatto oggetto di violenze incredibili, cioè ho letto di candelotti lanciati dentro le macchine, e fra l'altro qualcuno è stato accusato di aver voluto investire con la macchina agenti. Sì. Quanti sono stati gli arresti, o comunque i fermi, e i poi fermi quanti tra... Sono stati in totale erano 21 se non sbaglio, no? E gli arresti 14. E poi non si sa quando verranno processati? Saranno processati il 14 di febbraio, no? San Valentino. Sì, non so che coincidenza è questa, l'altro processo è l'8 di marzo, insomma, no? Ah, proprio scelgono delle date ad hoc, sì. Evidentemente. Non a caso. E quindi poi so anche di sono andati anche negli ospedali, ho letto, a cercare i feriti. Sì, sono andati agli ospedali, no? Non per fortuna, per loro come sarebbe onore, per i medici, riguardo i medici, insomma, il fatto che non hanno dato nomi, non hanno permesso, insomma, di perseguitare gente all'interno degli ospedali, insomma. Beh, no? Bene, in effetti era una signora alla quale gli hanno rotto il piede, no? L'hanno pistata per terra, no? Ferma, buttata giù dalla macchina, ferma e con una gamba rotta alla fine in ospedale. E non so quanto abbia contribuito il fatto che al tentativo della polizia di entrare nella montagna, no? Erano stati respinti, no? Più e più volte, perché si era fermata gente pure all'ingresso della montagna, fortunatamente, diciamo. E una volta però arrivati gli altri dalla montagna, che stavano dando la caccia, ma la caccia proprio, no. E lì è successo il panico. Hanno continuato a sparare ad altezza d'uomo, a tirare candelotti dentro le macchine, no? Senza distinzione di età, di niente, di, no. E in effetti la storia, come va a finire sempre, che ti becchi accuse che non c'entrano con quello che accade, no? Come appunto il tentato omicidio, insomma, o comunque danni gravi alle persone da parte di un signore che doveva guidare attentamente con un candelotto dentro la macchina, sparato da dietro, no? Quindi è evidente che poi non sapeva dove andava. Vetri infranti e cose, cioè, sì. Ho visto che c'è una partecipazione grande di donne, comunque, insomma, è vero, io ho visto quello che citavi tu, erano proprio, ci sono dei video appunto di cui tu ci parlavi, per fortuna, in cui si vedono queste donne che parlano con i poliziotti, che sono comunque l'avanguardia del corteo. È vero, sì, e non è la prima mobilitazione che la aprono, insomma, le donne della zona, no? E i motivi possono essere tanti, insomma. Comunque il fatto di, è anche una dichiarazione di intenzioni, no? Che non è quella, siccome appunto si è creata tutta una situazione quasi da guerra civile, no? Con questa parte della popolazione che, poca che sia, insomma, alla fine parlo dei minatori, è comunque è parte integrante della zona, delle nostre parti. Abbiamo detto, no, anche l'altra volta, noi abbiamo vissuto con le miniere da tanti anni, quindi questo tipo di retaggi, questo tipo di residui ci stanno, anche come mentalità, come prospettiva, insomma. L'altro non vuole pensare, vuole fare il minatore. Quindi c'è, qui si crea questa strumentale contrapposizione tra chi dice voglio lavorare e chi dice no, la salute, a parte che si può lavorare anche salvaguardando la salute, cioè non è che noi appunto liberiamo le vipere o vogliamo tornare alla candela. Però questo è un problema serio, insomma. Che entità ha questo tipo di atteggiamento nella zona? Che numeri? Che numeri? Considera che la popolazione del comune, con questo nuovo sistema di gestione dei comuni, è di 21.000 abitanti. È suddiviso in diversi paesi, insomma, questo numero, no? Il nostro sindaco, l'unico che è sostenitore vero di questo investimento, ha vinto con 6.800 voti, dei quali non gli appartengono, non lo sostengono, insomma, non lo sostiene tutta questa gente che l'ha votato. Lui è stato, l'abbiamo già detto, è stato sottosegretario all'epoca dei grandi salti di crescita, insomma, ellenici. No, era stato sottosegretario sia al Ministero delle Finanze che a quello dello sviluppo, insomma, no? Quindi è uno dei pionieri, insomma, col governo di PASOK, no? Che in effetti il governo che è partito, che l'ha scomunicato, no? Dopo lo scandalo del 2004, è uno degli artefici della bellezza, con, ovviamente, con tutti gli amici. Parli delle Olimpiadi? Anche prima delle Olimpiadi. Ultimo era quello delle Olimpiadi, lì era la pietra tombale, insomma, dell'economia ellenica, insomma, no? C'è un buco così in un intervallo di tempo da velocità della luce, praticamente, è di 25 miliardi. No, per sostenere i giochi olimpici, cioè i giochi olimpici da, non so, insomma, da delle ultime cinque organizzazioni, insomma, no? Sia quella di Pechino, di Sydney, cioè se le metti insieme non fanno 25 miliardi. Noi ce la siamo scampati bella, ecco. Sì, no, sì, perché noi siamo molto felici che invece non ci hanno dato, non mi ricordo, quella del 2020. Sì, poi a un certo punto abbiamo rinunciato perché si è capito che la situazione sì. Non era... Governano così, no? Col sistema elettorale, governano così, non è che è una cosa... Cioè il primo partito della zona, no, è l'astensione dalle ultime elezioni, no? Cioè dal 34 al 38%. Loro sono riusciti a racimolare, ricattando o prendendo indietro, insomma, i vecchi debiti o prestiti, insomma, che avevano fatto a certa gente. Parlo del nostro sindaco, cioè senza nessun tipo, no? Tanto lì non c'è pudore, insomma, no? Non esiste, insomma, per persone come lui. E governano così, si appella a questa cosa, cerca di organizzare con dei discorsi castriani, si potrebbe dire, no? Parla per 6 ore, 8 ore, insomma, io ne so, no? È l'unico che parla al consiglio comunale, è l'unico. Se parla 8 ore li prende per stanchezza, no, tutti, certo. Viviamo in una situazione così da questo punto di vista, però la gente non sicuramente si deve opporre, no? Come dicevamo, la situazione economica, anche sociale, è articolata. C'è un altro problema nella zona. È il turismo industriale. A Calcidica ne soffre di questa storia qua, no? Che intendi per turismo industriale? Grossi stabilimenti senza tutte le prerogative, insomma, senza con tanto di abusivismo, no? In queste zone, insomma, l'abusivismo è stata la bandiera principale, insomma, no? Delle bandierine blu. Bandierina blu uguale abusivismo, insomma, no? Quello sì. E comunque sia riguarda una parte della popolazione molto più vasta, no? Ammettendo che se noi ci vogliamo distruggere, ci distruggiamo con le proprie mani. Fortunatamente si sta aprendo un discorso per quanto riguarda questa gente qua, no? Albergatori vari, eccetera. È importante che cercano loro stessi le controproposte. È importante, da quello che si dice di certi di loro, insomma, che sono disposti ad assumere personale ellenico, diciamo, insomma, no? in quanto loro lavorano di solito con diversi contratti, voi ne sapete meglio, insomma, di tutta questa mobilità di gente dalla Repubblica Ceca, dalla Romania, dalla Ucraina o non so che cosa, o russi, gente che lavora con 14 euro al giorno, no? Attraverso contratti loro, non so se riguarda la... come si chiamava quella direttiva europea, non mi ricordo. Sì, ho capito, non viene quella... La Schengen per i lavoratori. Sì, sì, sì, sì. Ora la troviamo. E tu vai a lavorare in un altro paese, ma con le condizioni del paese di provenienza. Quindi ci sta questa situazione, ci sta questa apertura, no? Quindi una delle parti, delle componenti che articolano l'economia locale, diciamo, è il turismo. Turismo che si può evolvere per certi aspetti, no? Altri tipi di turismo. Si offre la zona, non è che sarebbe una, non lo so, da elaborare, da vedere. È un argomento molto delicato. Beh, comunque è importante questo contatto, insomma, tra vari problemi, no? Perché la questione del turismo selvaggio è un problema grosso, perché poi la gente vede i soldi facili ed è difficile spiegarle che comunque, a parte la devastazione del territorio, questo poi porterà alla distruzione del turismo stesso, perché se tu una zona come la Calcidica la fai diventare, che ne so, come Ibiza, per non dire Rimini in Italia, poi alla fine l'attrattiva stessa viene a mancare. Io manco dalla Calcidica da 20 anni e mi immagino che può essere successo nel frattempo. Hanno costruito dappertutto, no? Ed è un'occasione questa di per mettere freno anche a quel tipo di espansione di quell'abusivismo, no? Il coinvolgimento, perché la gente... Questa storia è cominciata, l'ultima versione ha inizio nel 2006, no? Come anti-miniere, insomma, nella zona. E da parte nostra ci sono stati molti tentativi di apertura anche al sud della Calcidica. Non è che c'è stato sempre il coinvolgimento, ovviamente ci si voleva del tempo perché la gente si rendesse conto, no? Ecco, è bastata la crisi economica generalizzata per rendersi conto che il sogno nel quale vivevi, no? Di costruire, insomma, che ne so, e vendere case come se fosse la cosa più naturale, no? Una legge naturale dell'economia è quello di vendere case, insomma, no? e seconde case, insomma, no? Case. Però la gente comincia a rendersi conto perché sia la situazione locale è articolata, cioè tanti si rendono conto, un'attività grossa, per dire, è l'apicoltura, no? Non si sente, non si vede tanto, insomma, per una delle più grosse associazioni di produttori fa sede a Calcidica, è zona rinomata per il suo miele insieme a Thassos, è zona che ospita migliaia di arni ogni anno. E saranno 3-4 mesi che si stanno dando da fare. Perché le api sono le prime sensibili all'inquinamento dell'ambiente. Sicuramente in ambiente solfureo, insomma, che ne sono. Non viene un buon miele, non viene proprio. No. Senti, quindi rispetto a questa violenza repressiva che insomma, durante la mobilitazione, la popolazione, quindi che atteggiamento ha avuto poi? L'intenzione era di terrorizzare, questo è evidente. Come ha reagito la popolazione? Questa è la cosa, penso che non gli sia piaciuta per niente. No, sia la sera stessa dei fermi e degli arresti, si è mobilitata gente, ci si è trovati in più di 300 a Polygyros, dove ci sta la direzione, insomma, della polizia, il centro operativo. Quindi c'è stata la manifestazione spontanea, ovviamente, alle 11 di sera a Polygyros, nella nostra capitale dormitorio, no? Mortorio, anzi, cioè non, nulla, però era simpatico, la gente si è sentita tutto sommato bene, no? Noi qualche risata ce la facciamo sopra, insomma, su queste storie, alla fine dei conti, perché fanno ridere. E ancora più interessante, sia il giorno dopo c'è stata gente durante la prima udienza, perché andava per direttissima, l'hanno rinviata per 48 ore o 72, mi pare, sì, giovedì successivo. c'è stato il processo, rinviato di nuovo, era processo per direttissima, loro l'avevano rilasciati e dopo l'hanno rinviato a, come si chiama, processo regolare, insomma, a febbraio, no? Sì. La cosa bella, scusa un attimo, no, prego. Il fatto della mobilitazione di quel giorno a Polighiros, più di 1500 persone, è stata il giorno del processo. Il giorno del processo è stato, diciamo, uno dei momenti più belli di questa storia qua. Beh, una bella risposta, certamente. Vediamo. Senti, le prossime iniziative, le prossime mobilitazioni? Prossime mobilitazioni, diciamo, di quello di cui si parla seriamente è la mobilitazione del 24 novembre a Salonicco, no? Si pensa a una manifestazione possibilmente il più partecipata, ma una mobilitazione, diciamo, che riguarda tutta la parte nord della Grecia e non solo, no? Ma soprattutto questi che sono i diretti interessati di questo tentativo che si fa da parte sia del governo e della multinazionale stessa, o comunque di quello che sta succedendo dal punto di vista di gestione delle terre comuni in Grecia stessa, insomma, no? Dal punto di vista di privatizzazioni o altri passi obbligati per allinearsi ai dettami della Troica. Quindi questa manifestazione convergeranno un po' tutti i tipi di movimenti che tu ci hai adesso illustrato della zona, agricoltori, anche addetti del turismo e poi la popolazione che si batte contro le miniere. La mobilitazione vorrebbe essere di questo tipo, sì. Soprattutto i comitati e le associazioni varie che partecipano direttamente contro, che abbiano un coinvolgimento diretto contro le miniere, ovvero quel di Kilkis, di Tracia e della Calcidica, ma anche ci sono stati e ci sono contatti con la gente che si batte, per dire, contro la costruzione di inceneritori a Salonicco. Cioè diventerà veramente un ambiente molto strano quello della zona di Salonicco, insomma, come struttura urbana, insomma, che ne so, principale della zona. Cioè, due inceneritori intorno a Salonicco da introdurre anche immondizia dall'Italia, ne avete un po' che avanti. Sì, sì, noi ce ne abbiamo per tutti. No, è prevista la cosa, no? Dai loro piani. Sì, sì. E poi almeno due miniere intorno a Salonicco, insomma, che ne so, a cielo aperto nuove. Senti, adesso l'attività estrattiva non è ancora cominciata? No, non è cominciata l'attività. È poco di quello che siamo riusciti ad ottenere fino adesso, no? Perché ci sono stati lavori di deforestazione, si sono quasi conclusi questi, quanto sarebbe, 180.000 ettari, non 180.000 ettari, quant'è? 2.000 stremmi sono... non ti posso aiutare. sono stati concessi 3 milioni di metri, no? Per questo tipo di deforestazioni. E già è cominciata? Già è cominciata, insomma, che ne so, ne hanno abbattuto parecchi alberi. La cosa più grave, insomma, come intervento, quello che fanno è il fatto che sradicano, perché devono appianare, devono spianare praticamente per le varie strutture di cui abbisognano. Comunque l'attività non è iniziata, anche questo tipo di attività di cui parlo è a rilento. Dal punto di vista comunicativo non gli sono andate bene le cose, perché parte di questa legna dagli alberi tagliati, insomma, che ci stava in montagna, la ditta, Eldorado, l'ha regalata all'ufficio forestale della zona, no? Responsabile praticamente di tutta la gestione del bosco, eccetera. E quella si è messa a disposizione a basso prezzo per i non abbienti, per le famiglie grandi, insomma, che ne so, con più di 3 figli, o quelli che erano assicurati alla cassa degli agricoltori. La metà della gente tanta gente non aveva capito la provenienza. Una volta che si è parlato della provenienza, hanno richiesto indietro i soldi. con l'intenzione di pagare di più alla legna che metteva a disposizione l'associazione degli operai dei forestali della zona, una delle, come sarebbe, delle parti produttive, insomma unità produttive della zona molto importanti in questa lotta, no? Perché sono stati i primi ai quali è stato proposto di disboscare, no? che sarebbero pure ripagati abbastanza bene di questa storia, diciamo che ne hanno rifiutato e fanno parte di quel nuovo collante che si sta creando in qualche modo nel tentativo di riformare una società, no? Contro questa logica da guerra civile che ha imposto la Eldorado giù. E poi certamente un risultato di questo genere viene da un intervento che dura da tanti anni nella zona da parte di compagni e compagne, da parte insomma di chi si è per primo reso conto di qual era il pericolo. Diciamo, dal punto di vista dell'immaginario sociale, ci stava questa cosa di lotte contro le ditte minerarie, no? Sia lo sciopero del 77 dei minatori contro la ditta, insomma, per condizioni migliori, salari eccetera, insomma, sia quella degli abitanti di Olimpiada contro la ditta precedente, sempre canadese, la TVX Gold, questo era rimasto, no? E quindi nel 2006, una volta che è riapparsa questa esigenza, si è mobilitata gente, inizialmente a Megali Panagia, paese di minatori, perché ci si rendeva conto che le cose mo questa volta cambiano, no? Mo ci arrivano proprio nel nostro cortile, e quindi ci si è mobilitata la gente e anche il paese, ovviamente, con i problemi più grossi dal punto di vista di questa divisione sociale, no? Gli uni e gli altri, in quanto paese di minatori da sempre, la ditta da quando ha assunto le proprietà la Eldorado, no, si è messa a lavorare proprio su questa storia qua, no? Pagare per dividere. Ci sei riuscita fino a un certo punto, mo la gente si sta riprendendo un po' da questa ventata di sviluppo nuovo, insomma, di promesse dorate o cose così. Eldorado. Senti, rispetto alle conseguenze dell'estrazione e soprattutto della lavorazione, ci vuoi dire un po' che cosa concretamente, quali sono concretamente i danni che un intervento di questo tipo produce? Concretamente io credo che non li possa individuare, definire nessuno, no? Perché è talmente grosso l'intervento che non credo che si possa calcolare in qualche modo il no, ma che tipo comunque di inquinamento, no? Ecco, viene prodotto l'inquinamento. Prima di tutto inquinamento atmosferico, no? dalle esplosioni, dalle diverse polveri, insomma, che verranno sollevate. Si parla di circa 3.200 tonnellate di polvere ogni ora, no? E, vabbè, tutta una storia di esplosioni e di scavi, no? Di una montagna, cioè. Quindi sono estrazioni a cielo aperto? Sono estrazioni a cielo aperto. La modalità, il problema principale non è che cambierebbe qualcosa per quanto riguarda le conseguenze dell'intervento se le estrazioni dovessero tradizionali, essere, diciamo. Tradizionali così, no? Perché è quello che diversifica la cosa è la misura, è la scala, no? Si è passati ad altri ordini di grandezza rispetto a quello che si faceva fino a qualche anno fa, sempre inquinante. Perché l'oro comunque è di meno, i metalli sono di meno e quindi cambiano l'oro anche... è di meno, le concentrazioni di oro sono molto basse. Quello che permette, che rende vivibile un intervento del genere dal punto di vista economico è la quantità. Le 24.000 tonnellate di estrazione al giorno, quello che rende i 0,8 grammi, da 0,18 a 0,8 grammi per tonnellata estratta, no? Quello la rende in qualche modo economicamente conveniente, perché prendi un quantitativo, quindi che ne so, insieme a questo prendi quel rame che ci sta e altre cose in quanto polimetalli che piano piano ne tiri fuori. Oppure, però, il discorso è sempre che il tipo di lavorazione è lavorazione chimica, l'estrazione è chimica, gli agenti che si usano sono o cianuri in una parte della cosa o idrosolfuri soprattutto nel nostro caso, così dicono almeno. La cosa più probabile è che va a finire tutto con cianuro di sodio, no? in quanto la ditta specifica, la Eldorado Gold, in più circostanze, anche in convegni scientifici eccetera, sostiene che la maniera più ecologica per l'estrazione d'oro, più compatibile con l'ambiente, no, è quella con l'uso di cianuro di sodio, no? Una cosa che alla fine ammette, cioè ci sarebbe pure qualcosa anche di peggio. Sì, ci sta, no? Idrosolfito di sodio, se non sbaglio, no? E sì, è un po' peggio, almeno così così dice una direttiva della Comunità Europea. Vabbè, comunque il cianuro di sodio non fa bene. No, il cianuro di sodio non fa bene, e tutti i reagenti, insomma, i xantati non fanno assolutamente bene. E poi si depositano comunque nel terreno, nell'acqua, e quindi è qualche cosa che poi rimane nei secoli in una zona appunto molto agricola. Questo è l'importanza di questa zona, no? Non è soltanto quella del bosco ancestrale, selvatico, che ci sta, o dell'inquinamento atmosferico, eccetera. È che la principale da qui farà sicuramente della calcitica del nord, ma anche la parte da dove ci sono le fonti del fiume, insomma, della calcitica, no? Che negli studi di Chavrias, no? Che va a finire nel sud della calcitica, però e dove sfocia? Sfocia nel golfo di, come si chiama, di Sidonia, a Ormiglia. Quindi tra Porto Caras, diciamo, insomma, così, e Cassandra. E Cassandra, quindi tra le prime due, sì, dita, guardando da sud, diciamo. Guardando da sud. Marmara, sì. Cassandra e poi Agios Oros, Monte Athos. No? Senti, va bene, ci avviamo verso la conclusione, però ti volevo chiedere ancora una cosa: ci sono contatti di questo movimento, insomma, che ci hai illustrato oggi, col resto di analoghe situazioni specifiche, diciamo, di lotta ambientale, chiamiamola così, anche se, come giustamente dicevi te, non la possiamo classificare come lotta ambientale, diventa una lotta complessiva anticapitalista, mi sentirei di chiamarla così, quella è l'aspirazione. Nel resto della Grecia, insomma. Ma non solo, no? Cioè, e per forza di cose devi parlare di qualcosa di diverso, quello che dicevamo prima del turismo, no? Cioè, bisogna parlare di qualcosa di diverso. Questo modello non è ammesso. Da noi che ci pronunciamo questa volta come società locale, vi diciamo che questa è la prima volta, no? Che in un'apertura, se vuoi, pubblica, ci si mettono queste questioni. Per noi questa è una cosa molto importante, no? Crea in qualche modo, o permette, insomma, l'emanare di l'emergere di una logica forse nuova. E poi è da vedere tutto come evolve, insomma. Sì, poi è come è uscire anche dal ricatto, occupazione, salute, cosa che stiamo vivendo anche ovviamente qui in Italia, quindi dire: guardate, non è vero che c'è solo questa scelta, c'è una scelta alternativa di una società diversa, possiamo dire. Sei costretto a farlo, no? Sì, sì, sì. Anche non è il nostro lavoro indicare altri percorsi di, no? Certo. Almeno così generali, cioè come si svilupperà, come faremo il nuovo piano regolatore di Salonico. Io, che ne so, sono piccolo, insomma, da un certo punto di vista, per fare una cosa del genere, e nemmeno mi interessa, no? Ma come soggetto, insomma, sociale, non mi interessa, insomma, questa, perché è una cosa che va al di là. L'abbiamo sempre visto, è stato sempre così, quindi o si fa un nuovo tipo di discussione, questo vale per tutta la Grecia, no? Certo. Anche per Piazza Sindagma, e come soprattutto, no? Come o no? Si rifà un nuovo tipo di discussione, oppure, che ne so, ci bombarderanno sempre con quella roba, insomma, che si vede ogni tanto in maniera così. Sì, adesso non abbiamo tempo per parlare. Comunque, allora, il 24 c'è questa grande mobilitazione, sì, a Salonicco, poi ci sono questi appuntamenti che forse l'hanno fatto il 14 febbraio e l'8 marzo, così non ce lo scordiamo, perché sono date facili, sì, da ricordare. Sì. E sicuramente, insomma, avremo modo di risentirci, per anche staremo molto attenti a questa mobilitazione di Salonicco, ci sembra molto importante. Quindi ti ringraziamo, se vuoi aggiungere qualcosa. No, un ringraziamento per voi. Figurati. Perché, vabbè, non è che trovi facilmente, anche se un po' lontano, non so come si chiamano, insomma, che audience ci sta. Beh, insomma, noi abbiamo anche lo streaming, quindi, no, insomma, ecco, in teoria ci possono sentire anche dall'altra parte del mondo. Comunque, Noi seguiamo la questione della Grecia, insomma, già da 2 anni abbiamo fatto 2 quaderni autoprodotti sulla situazione greca, che possono essere condivisi, non condivisi, ma comunque sono uno sforzo della redazione di comprendere quello che noi abbiamo definito 2 anni fa un laboratorio dell'orrore. La Grecia è questo, e ci siamo, insomma, ci siamo pienamente, cominciamo a vederlo anche qui. Bene, allora a presto, e quindi ringraziamo. Volevi dire qualcosa, sì, Marco? No, stavo pensando, visto che abbiamo ancora qualche minuto, visto che appunto l'ultima settimana in Grecia non è stata proprio delle più tranquille, se avevamo tempo così, sì, io, un brevissimo resoconto, insomma, delle manifestazioni, perché noi sappiamo solo di Atene, no, per esempio, perché ovviamente quello che succede a Atene, che è successo ieri, l'altro ieri, c'ha sempre una risonanza maggiore. Ecco, se tu ci vuoi dire qualche cosa che magari qui non, o se comunque ci sono state mobilitazioni anche dalle due parti. È una settimana che sto anche io qua, no? Quindi non è che è vero, pure questo è vero. No, c'è stata una manifestazione per quanto riguarda noi sabato scorso in Tracia, no? Poi comunque sia ad Atene si creano altro tipo di dinamiche. C'è un altro tipo di mobilitazione, Salonico è un po' diversa come città, con sue dinamiche, sue problematiche e di sostegno, io credo, no? Che vuoi dire con di sostegno? Che la scena centrale volutamente è quella di Atene, no? Ma in maniera assoluta, cioè è centralizzato così lo Stato greco, ed è, di conseguenza la situazione è proprio così, cioè dal punto di vista dell'amministrazione non ci sono strutture contro le quali in qualche modo puoi manifestare, no? È molto più dispersiva da questo, come se fosse fatta ad hoc Salonico così. Dal punto di vista militare si controlla in maniera diversa, insomma, no? Sta più vicino al confine. Sì. Anche questo, il controllo la sua deve essere molto più immediato e da tanti punti di vista. Comunque Atene non si sa. Va bene, comunque poi verso la fine del mese ci verrà a trovare un compagno d'Atene con cui parliamo spesso dalla radio, e magari ci faremo raccontare, meglio, ma insomma tutte comunque queste nuove bellezze, insomma, che stanno mettendo in piazza, no? Sì, adesso l'ultima è i cannoni ad acqua dentro la sostanze chimiche anche, però insomma non c'è limite. Sembra che comunque, insomma, in Grecia non è che la testa la abbassino per adesso. E assolutamente no. Va bene, allora possiamo concludere, e dagli 87.9 di Onda Rossa con Yannis che ci ha raccontato della lotta contro le estrazioni minerarie in Cancidica e non solo. Vi salutiamo e vi rimandiamo a qualche minuto ancora e poi il GR.